Canto ventunesimo della Divina Commedia Inferno di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto ventunesimo. Così, di ponte in ponte, altro parlando che la mia commedia cantar non cura, venimmo e tenevamo il colmo, quando ristemmo per veder l'altra fessura di Malebolge e gli altri pianti vani, e vidila mirabilmente oscura, quale nell'arzanà de veneziani bolle l'inverno la tenace pece ad impalmar i legni lor non sani che navicar non ponno, e in quella vece chi fa suo legno nuovo e chi ristoppa le coste a quel che più viaggi fece, chi ribatte da proda e chi da poppa, altri fa remi ed altri volge le sarte, chi terzeruolo ed artimon rintoppa, tal non per fuoco ma per divina arte bollia laggiuso una pegola spessa che inviscava la ripa d'ogni parte. I vedea lei, ma non vedea in essa ma che le bolle che il bollor levava, e gonfiar tutta e riseder compressa. Mentr'io laggiù fisamente mirava, lo duca mio, dicendo: «Guarda, guarda!» mi trasse a sé del luogo dove io stava. Allor mi volsi, come l'uom cui tarda di veder quel che gli convien fuggire, e cui paura subita sgagliarda, che per veder non induce al partire, e vidi dietro a noi un diavol nero correndo su per lo scoglio venire. Ahi, quant'egli era nell'aspetto fiero, e quanto mi parea nell'atto acerbo, con l'ali aperte e sopra i piedi leggero. L'omero suo, che era aguto e superbo, carcava un peccator con ambo l'anche, ed ei tenea de piedi ghermito il nervo. Del nostro ponte disse: «O malebranche, ecco un degli alziam di Santa Zita! Mette il sotto, ch'io torno per anche a quella terra che n'è ben fornita. Ogni uom v'è barattier fuor che bonturo, del no per l'innar vi si fa ita». Laggiù il buttò, e per lo scoglio duro si volse, e mai non fu mastino sciolto con tanta fretta a seguitar lo furo. Quei s'attuffò e tornò su convolto, ma i demon che del ponte avean coverchio gridar: «Qui non ha luogo il santo volto, qui si nuota altrimenti che nel cerchio, però se tu non vuoi dei nostri graffi non far sovra la pegola soverchio». Poi l'addentar con più di 100 raffi disser: «Coverto convien che qui balli, sì che, se puoi, nascosamente accaffi. Non altrimenti i cuochi ai lor vassalli fanno attuffare in mezzo alla caldaia la carne con gli uncin, perché non galli». Lo buon maestro: «Acciò che non si paia che tu ci sii», mi disse, «giù t'acquatta, dopo uno scheggio che alcun schermo taia. E per nulla offension che mi sia fatta, non temer tu ch'io ho le cose conte, perché altra volta fui a tal baratta». Poscia passò di là dal co del ponte, e come giunse sulla ripa sesta, mestier li fu d'aver sicura fronte. Con quel furore e con quella tempesta ch'escono i cani addosso al poverello, che di subito chiede: «Ove s'arresta?» Usciron quei di sotto il ponticello e volser contra lui tutti i roncigli, ma ci gridò: «Nessun di voi sia fello! Innanzi che l'uncin vostro mi pigli, traggasi avanti l'un di voi che moda e poi di roncigliarmi si consigli». Tutti gridaron: vada malacoda! Per cun si mosse e gli altri stetter fermi. E venne a lui dicendo: chi gli approda? Credi tu, malacoda, qui vedermi esser venuto, disse il mio maestro, sicuro già da tutti i vostri schermi, senza voler divino e fato destro? Lasciami andar, che nel cielo è voluto ch'io mostri altrui questo cammin silvestro. Allor li fu l'orgoglio sì caduto che si lasciò cascar l'uncino ai piedi e disse agli altri: ormai non sia feruto. E il duca mio a me: o tu che siedi tra gli scheggion del ponte, quatto quatto, sicuramente ormai a me ti riedi, perché io mi mossi e da lui venni ratto, e i diavoli si fecer tutti avanti, sì ch'io temetti non tenesser patto. E così vid'io già temerli fanti ch'uscivan patteggiati di caprona, veggendo sé tra nemici cotanti. Io m'accostai con tutta la persona lungo il mio duca, e non torceva gli occhi della sembianza lor che era non buona. E chinavan li raffi, e «Vuoi ch'il tocchi?» dicea l'un con altro, «in sul groppone?» E rispondea: «Sì, fa che gliele accocchi!» Ma quel demonio che tenea sermone col duca mio si volse tutto presto e disse: «Posa, posa, scarmiglione!» Poi disse a noi: «Più oltre andar per questo scoglio non si potrà, perché giace tutto spezzato al fondo l'arco sesto, e se andare avanti pur vi piace, andatevene su per questa grotta. Presso è un altro scoglio che via face. Ier, più oltre cinque ore che quest'otta, 1200 con 66 anni compier, che qui la via fu rotta. Io mando verso là di questi miei a riguardar, s'alcun se ne sciorina. Gite con lor, che non saranno rei. Tratti avanti, Alichino e Calcabrina, cominciò egli a dire, e tu, Cagnazzo e Barbariccia, guidi la decina. Libicocco venga oltre, e Draghignazzo, Ciriatto Sannuto e Graffia Cane, e Farfarello e Rubicante Pazzo. Cercate intorno le bollenti pane, costor sien salvi insino all'altro scheggio, che tutto intero va sopra le tane. O me, maestro, che è quel ch'io veggio? Diss'io. Te, senza scorta andiamoci soli, se tu sai ir, ch'io per me non lacheggio. Se tu sei sì accorto come suoli, non vedi tu che digrignan li denti e con le ciglia ne minaccian duoli? Ed egli a me: non vo che tu paventi, lasciali digrignar pure a lor senno, che fanno ciò per li lessi dolenti. Per l'argine sinistro volta dienno, ma prima avea ciascun la lingua stretta, co denti verso lor duca per cenno, ed egli avea del cul fatto trombetta. Fine del canto 21.